perfetto giorno di Simone Spezia. Eccoci qua, benvenuti o bentornati al podcast di Effetto Giorno. Io sono Simone Spezia, staremo insieme per qualche minuto per raccontare un po' quelle che sono le notizie della giornata e anche riflettere un po' con qualche approfondimento. Magari leggeremo anche alcuni dei vostri sms che sono arrivati durante la trasmissione. Come sapete siamo in onda tutti i giorni dalle 13 alle 14 e a volte, proprio perché i tempi sono compressi, non abbiamo il tempo di dar voce alle vostre opinioni. Lo facciamo in questa sede. Se avete indicazioni, riflessioni, idee, l'email è effettogiorno@radio24.it oppure mi trovate su Twitter, Simone Spezia. Si scrive con la T, Simone Spezia, e c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Sicuramente questa è una giornata centrale per le trattative che riguardano l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Come ben sapete, domani giovedì si inizia a votare e probabilmente le prime votazioni, dato che richiedono una maggioranza qualificata, non andranno in porto, anzi quasi certamente. Tra l'altro il Partito Democratico ha indicazione di votare scheda bianca. Avremo presumibilmente il nuovo Presidente della Repubblica tra sabato e domenica. Nel momento nel quale vi parliamo, naturalmente, gli incontri del Presidente del Consiglio e segretario del PD Matteo Renzi con le altre forze politiche sono ancora in corso. Si sta concludendo l'assemblea del Movimento 5 Stelle. Quando abbiamo fatto il punto, la situazione era questa. Ce la racconta Elisabetta Fiorito. Matteo Renzi si smarca da Forza Italia, almeno così sembra. Il premier avrebbe detto no ai veti azzurri durante l'assemblea a Dem e avrebbe rilanciato su un candidato fuori dal patto del Nazareno, tanto che Renzi ha incontrato questa mattina Pierluigi Bersani a Palazzo Chigi. L'incontro è andato bene, abbiamo ragionato bene, dice l'ex segretario. Ci sono delle personalità politiche, ma abbiamo ancora molti giorni davanti. Certo che abbiamo parlato di nomi. Il veto del premier è proprio sul candidato di Forza Italia, che paradossalmente starebbe bene anche alla minoranza Dem, ovvero Giuliano Amato. Insomma, per disinnescare la trama Amato, il premier preme per il disgelo nel partito, mentre adesso dovrebbe arrivare a pranzo il faccia a faccia più atteso, quello appunto con Silvio Berlusconi. In questo momento, come hai detto tu da studio, il premier sta vedendo Pier Ferdinando Casini a Palazzo Chigi. Per il vice segretario PD Lorenzo Guerini, il partito non teme imboscate come nel 2013. Intanto Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Lega e Fratelli d'Italia, candidano il giornalista Vittorio Feltri. C'è poi l'altro fronte, come si diceva, l'assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Poi si procederà ad un voto che avverrà online una volta estratta una lista di nomi. Alessandra Schepisi ci racconta un po' i nomi che sono emersi. Movimento 5 Stelle, dunque, che traccia il percorso per l'elezione del capo dello Stato. È in corso l'assemblea dei parlamentari che in questo momento sta votando i nomi del Presidente della Repubblica, una rosa di nomi che verrà poi sottoposta a votazione sul blog nelle cosiddette quirinarie che dovrebbero svolgersi tra domani e dopodomani. Il candidato che otterrà più preferenze sarà poi votato dal gruppo parlamentare sin dal primo scrutinio, e se dal quarto invece i cambi di maggioranza dovessero portare ad un nome condiviso tra più forze politiche, ci sarà una nuova votazione lampo sul blog. Questa assemblea dei parlamentari è in streaming, ma è stata interrotta ora, come dicevo, per consentire la votazione dei nomi. Ma quali nomi emersi? Prodi, che però divide il movimento, ha preso quota il nome di Bersani, nome proposto da Alessandro Di Battista espressamente per mettere in difficoltà il sistema, ha detto lo stesso Di Battista, nome però bocciato da Luigi Di Maio. Circolano poi anche nomi di Cofferati, addirittura Benigni o Magalli. Naturalmente il Movimento 5 Stelle è alle prese anche con altro. C'è il problema delle persone che sono uscite, che ieri hanno deciso di lasciare il Movimento. Si tratta di nove deputati che sono stati sottoposti a pesanti accuse anche dai militanti. Bene, noi ci sono molti sms che sono arrivati da voi durante la trasmissione proprio a proposito di questo tema e di questa intervista che abbiamo realizzato. Uno di questi fuoriusciti è un deputato che si chiama Tancredi Turco. Sono stati accusati di essere dei venduti. Ebbene, con Turco, che è stato ospite di Effetto Giorno, siamo partiti proprio da qua. Non c'è assolutamente nulla di più falso. Vorrei capire venduti perché nel senso che perché passiamo dal governo è falso, noi usciamo ma rimaniamo all'opposizione e vogliamo fare sempre una forte e decisa opposizione, quindi non è certo questo la motivazione, ci accusano che lo facciamo perché vogliamo tenerci lo stipendio, visto che è risaputo che i parlamentari del Movimento 5 Stelle restituiscono una parte del proprio stipendio, anche questo è falso, perché continueremo a restituire lo stipendio, dopodiché parlo a titolo personale, in neanche 2 anni di legislatura ho restituito qualcosa come 106.000 euro, quindi se avessi voluto farlo per una questione proprio puramente economica l'avrei fatto 2 anni fa, quindi non sono certo queste le motivazioni, anche se capisco che sia partita la macchina del fango e non hanno altre motivazioni per giustificare la scelta. Senta Turco, molti vostri militanti, tra cui in maniera piuttosto esagitata, come è successo ieri all'ingresso, all'arrivo di Walter Rizzetto al Nazareno, dicono: beh, insomma, voi siete stati eletti col Movimento 5 Stelle, ma a questo punto perché non vi dimettete? Cioè, quantomeno il gesto, poi noi sappiamo in realtà che deve votare la Camera a maggioranza quando si dimette un deputato e il Senato quando si dimette un senatore, quindi è probabile che nemmeno passino le vostre dimissioni, insomma, detto ciò, perché almeno il gesto di dimettersi non lo fate? Guardi, la decisione di uscire è stata una decisione presa sostanzialmente negli ultimi giorni, quindi poi non si è dato neanche il tempo materiale probabilmente per assegnarle. Poi c'è da dire un altro discorso, noi più che noi vogliamo, pretendiamo le dimissioni a dire la verità del Movimento 5 Stelle, che secondo noi ha tradito quelli che sono proprio gli ideali per cui noi siamo entrati lì. Detto questo, come dice lei, le dimissioni sono puramente un atto formale, nel senso che la Camera poi le respinge, perché l'articolo 67 della Costituzione dice che non c'è vincolo di mandato, quindi sostanzialmente se sono per ragioni politiche vengono respinte. Il collega Iannuzzi, credo non più di un mese fa, ha segnato le dimissioni e la Camera le ha respinte, lo stesso è successo per molti senatori ex Movimento 5 Stelle che le hanno presentate ripetutamente al Senato. Detto questo, io comunque non ho problemi a fare questo gesto, ci sto pensando, l'ho sempre dichiarato che una volta che non mi sarei più sentito far parte del Movimento 5 Stelle avrei dato le mie dimissioni. Io personalmente, ma qua parlo a titolo puramente personale, sotto questo punto di vista i miei colleghi che sono usciti hanno più il dente avvelenato, io personalmente non potrei lo farò questo gesto, non ho problemi a farlo. Cioè si dimetterà? Non è questo il problema per me, io lo ripeto, la macchina del fango è partita, ci accusano di essere dei traditori, di farlo per soldi, di fare stampella, sono tutte motivazioni totalmente false, io glielo dico con il cuore, i motivi sono veramente altri, è una questione di democrazia interna che non c'è mai stata all'interno del Movimento 5 Stelle, la scelta a questo punto è dolorosa, ripeto, io non mi sento un traditore se mai mi sento traditore. Dunque alcune delle vostre valutazioni. Danilo ci scrive che ha votato Movimento 5 Stelle, vorrebbe che queste persone andassero a casa e sono dei traditori, come avete sentito, lo stesso Turco ha detto che è pronto a dimettersi e però purtroppo o per fortuna le regole di Camera e Senato prevedono che ci sia un voto da parte dei deputati o dei senatori quando si dimette un deputato o un senatore e quindi anche se Tancredi Turco si dimettesse, cosa che probabilmente farà almeno stando a quello che ci ha detto, queste dimissioni probabilmente non avrebbero efficacia perché con tutte le probabilità la maggioranza del Parlamento sarebbe contrario. A Donatella da Genova che ci scrive perché intervistate questo groviglio di vipere, parlando proprio di Tancredi Turco, diciamo che normalmente ospitiamo tutte le posizioni, abbiamo ospitato anche persone dure pure del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo fatto spesso, gli ascoltatori lo sanno. Un altro ascoltatore invece ci scrive da Pesaro, Lino, e ci dice: avete fatto bene ad intervistare Turco, e Turco ha perfettamente ragione. Questo per quanto riguarda la politica. Vogliamo passare all'estero iniziando dalla Grecia, dove il primo consiglio dei ministri presieduto da Alexis Tsipras si conclude proprio con provvedimenti economici. Innanzitutto uno stop alle privatizzazioni. C'è grande preoccupazione in questo momento sui mercati, la borsa di Atene a metà giornata è arrivata a perdere l'8,5%, con le banche particolarmente penalizzate. Ci spiega il perché di tutto questo e ci racconta questa prima riunione dell'esecutivo Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore. Dunque il primo consiglio dei ministri, che è a tambur battente, perché ricordiamo ieri è stato nominato il governo e questa mattina si è già riunito appunto il primo consiglio dei ministri di questa nuova alleanza tra sinistra radicale e destra estrema di Anel con Panos-Kamenos, una strana alleanza, ha già deciso immediatamente di bloccare due privatizzazioni che erano molto importanti, la DEI, che è praticamente l'Enel greca, quindi è una delle più grandi compagnie e società quotate in borsa, che doveva andare sul mercato, e il governo ha annunciato che questo verrà bloccato, e ha bloccato anche la privatizzazione dell'autorità portuale del Pireo, che è il porto mercantile maggiore della Grecia. Era una privatizzazione molto attesa, e i cinesi della Cosco, che hanno già due banchine mercantili in loro mano per 30 anni, in gestione per 30 anni, contavano di avere il 67% di questa società. Due battute d'arresto molto importanti e molto delicate, che hanno subito fatto precipitare la borsa di Atene di un altro 3,8% in mattinata, con i titoli bancari che hanno perso mediamente il 20%. Tutto questo perché il governo, per finanziare delle possibili azioni come l'aumento appunto delle pensioni, la tredicesima mensilità alle pensioni minime, e ha annunciato anche che verrà aumentato il salario minimo da 586 a 751 euro, si ritornerà alla contrattazione collettiva, insomma tutta una serie di manovre, ha già detto che in qualche modo dovrà trovare dei fondi supplementari, e il mercato teme che siano proprio dei fondi che erano destinati a ripatrimonializzare le banche greche. Oh, tra l'altro ci sono anche altre questioni che riguardano la Grecia e che sono piuttosto interessanti in questa fase di tensione, di riacutizzarsi della tensione in Ucraina e con la Russia, perché la Grecia potrebbe mettere il veto ad ulteriori sanzioni decise dall'Europa sulla crisi ucraina. È quello che dicono fonti vicine al nuovo governo, al quotidiano Katimerini. Il nuovo esecutivo ha protestato per una dichiarazione del Consiglio europeo che chiedeva ai ministri degli esteri una mossa in questo senso. Il nuovo ministro degli esteri, Nikos Kotsias, ha detto più volte di essere favorevole a rapporti più stretti con Mosca. Vedremo come andrà da questo lato. Ma a proposito dei fronti di tensione internazionale, oggi la tensione è tornata a riacutizzarsi anche con gravi violenze tra Hezbollah e Israele. Ci sono stati scontri, spari di artiglieria al confine con il Libano, una serie naturalmente di colpi. La settimana scorsa Israele aveva colpito Hezbollah uccidendo sei persone, tra cui anche un ufficiale iraniano. Oggi Hezbollah ha risposto, ha colpito un mezzo militare israeliano, non è chiaro quante vittime ci siano, ma soprattutto oggi è morto anche un casco blu delle Nazioni Unite, della missione in Libano. Si tratta di uno spagnolo. Abbiamo chiesto un'analisi all'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Intanto non si può dimenticare che dalla guerra del 2006 gli israeliani e Hezbollah hanno un conto aperto, nel senso che venne semplicemente siglato allora un cessate il fuoco, non un accordo di pace, neanche meno una pace. Quindi, come dire, tutte e due attendono il momento migliore per appunto vendicarsi ognuno a suo modo. Il problema è se questo sia il tempo migliore in ogni caso, dal punto di vista brutalmente anche geopolitico. La regione è in fiamme, Israele è certamente vicino alle elezioni, Bibi Netanyahu sa che un Israele mobilitato è un Israele molto più disponibile verso le sue posizioni politiche, mentre Hezbollah è già impegnato militarmente pesantemente in Iraq e in Siria, quindi Hezbollah non ha interesse, non avrebbe nemmeno probabilmente i mezzi militari per sostenere un'offensiva israeliana, però in realtà alla fine non serve a nessuno dei due aprire un nuovo fronte di guerra in quella regione, perché appunto c'è la guerra civile siriana, c'è l'Iraq, c'è l'ISIS. Israele in qualche modo è rimasto abbastanza, grazie anche appunto al suo controllo delle sue frontiere, è rimasto abbastanza cauterizzato dal conflitto. L'allargamento di un conflitto anche di nuovo al confine fra Israele e Libano del Sud non si sa quale conseguenze potrebbe portare. Una regione in fiamme, dice Ugo Tramballi, una regione in fiamme anche per ovviamente l'avanzata armata di ISIS. E ci ricolleghiamo a questo per parlare di terrorismo, in questo caso non di terrorismo internazionale, o meglio di terrorismo internazionale nel senso di terrorismo jihadista, ma collocato in Italia. La notizia di oggi, tra l'altro, è che c'è stato un arresto, ci sono state una serie di perquisizioni a Palermo, è stata arrestata una persona di 43 anni, un convertito all'Islam, aveva addirittura dei manuali, oltre che delle munizioni da guerra in casa. Vedremo come evolverà e quali dettagli ulteriori ci saranno nel corso della giornata su questa operazione. Vi rimando come sempre ai giornali radio, ma c'è un'altra questione che fa discutere in queste ore, ed è il fatto che la Lombardia ha adottato una legge regionale per limitare, tramite una serie di regole urbanistiche, tramite oneri maggiori, tramite la possibilità per i comuni di indire un referendum, l'autorizzazione di nuovi luoghi di culto. Per non essere resa incostituzionale, riguarda tutti i luoghi di culto, quindi paradossalmente anche le chiese, gli oratori, piuttosto che anche un tempio buddista. E però chiaramente è una legge destinata alle moschee. La Lega dice che così si va nella direzione di maggiore sicurezza. Naturalmente si oppone a questa idea il presidente delle comunità islamiche italiane, che è anche l'imam di Firenze, Izzeddin Elziri, il quale dice: le moschee servono proprio ad avere più sicurezza. L'intervista è di Valentina Furlanetto. Realmente nel senso architettonico ce l'abbiamo la grande moschea di Roma, la moschea di Figrate, la moschea di Colle Valdelsa, la moschea di Ravenna. Poi abbiamo centinaia di moschee come sala di preghiera, come centro culturale islamico in Italia. Ci sono tutta una serie di posti dove i musulmani in Italia vanno a pregare, dai garage alle palestre, luoghi anche di fortuna. In particolare la preghiera del venerdì vanno a farla in, palazzo delle sport, in campi sportivi, in aree diciamo più disponibili, ma certamente quello che l'argomento della moschea oggi in Italia è un argomento di si tratta di uscire da luoghi non degni a luoghi degni, da luoghi di sottoterra, di garage, a luoghi di trasparenza, di dialogo, di confronto con tutti quanti. Secondo lei moschee aperte, ufficiali, sono più sicure anche di questi luoghi informali di culto, che possono essere anche case private? Ma certamente, ma credo proprio il nostro ministro dell'interno ha confermato questo. Quando abbiamo una moschea dichiarata dove si trova, in quale strada, chi sono responsabili, aiuta la sicurezza di tutti quanti noi. È quello che noi invitiamo il nostro governo a capire, che avere una moschea bella, dignitosa, aiuta alla trasparenza, aiuta alla convivenza pacifica, aiuta a togliere tanti dei pregiudizi che ci sono purtroppo. Sono pregiudizi però alimentati anche dal fatto che talvolta, almeno in passato, da queste moschee sono transitate persone integraliste. Può capitare qualche moschea che è passato di là, una persona che ha avuto a fare con il terrorismo, ma in generale le moschee hanno dimostrato, basta vedere gli ultimi dati, le ultime parti, le moschee hanno condannato sempre il terrorismo. I foreign fighters cosiddetti o persone integraliste segnalate al Ministero dell'Interno sono mai transitate attraverso le nostre moschee? Ma proprio il ministro Alfano, hanno confermato che queste persone qui sono andate tramite l'internet, non tramite le moschee. Quindi è internet il luogo di reclutamento? Purtroppo è così. Detto questo, per l'amor di Dio, anche noi diciamo non dobbiamo passare la guardia. Ma non dobbiamo fare una legge come questa legge regionale, che è proprio in maniera indiretta dice no ai luoghi di culto, perché attenzione, non solo per i musulmani, ma anche per tutti i cristiani. In poche parole si dice non aprire un luogo di culto, che va in contraddizione con la nostra Costituzione, che in maniera molto chiara parla della libertà religiosa. Quando si apre una moschea si avvisa il comune, si avvisa la questura, la prefettura. Se c'è una cosa illegale dobbiamo metterla in regola. Altro nodo abbastanza controverso è quello dei finanziamenti delle nuove costruzioni di culto islamico, delle moschee, no? Da dove arrivano questi finanziamenti? Ma questa è la trasparenza assoluta. La comunità islamica ha più di 25 anni di vita, se avesse fatto qualcosa che non torna di conti, diciamo, la nostra finanza interveniva, la trasparenza assoluta, tutto tramite le banche, tutto tramite conti correnti aperti, e sappiamo oggi non si può, cioè, quando la cifra supera 1000 euro non si può neanche darla in contanti, perciò io credo non dobbiamo creare paure, abbiamo già il terrorismo di fatto che uccide persone e non dobbiamo creare un terrorismo psicologico. E su questo, che è naturalmente un tema importante, abbiamo chiesto un'opinione anche a Lorenzo Vidino, che è un esperto di antiterrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ascoltiamo. Si agisce con una scure, con un'accetta quando ci vorrebbe lo scalpello. È chiaro che ci sono delle realtà problematiche a livello di moschee, è chiaro che ci sono delle, qui mi trovo in disaccordo con quello che diceva l'imam, presidente del Rukoi, prima, ci sono delle problematiche, ci sono un passato decennale di alcune, sottolineo alcune moschee che hanno invitato imam stranieri molto fondamentalisti e radicalizzanti, c'è un passato in alcune realtà molto forte e bisogna in un certo modo colpire queste realtà o comunque limitarne l'effettiva efficacia. Il problema qui è che però per limitare l'operato di alcune realtà si colpiscono tutte e quindi, a parte i problemi costituzionali che lei accennava, c'è comunque un messaggio generale che viene mandato a tutto l'Islam italiano di non siete benvenuti, non siete ben accetti qui, quindi è chiaramente problematico. C'è poi il discorso sicurezza, ci sono un insieme di negatività in questo tipo di provvedimento. Ecco, quindi mi sembra lei non concordi pienamente con il ragionamento che in parte faceva l'imam, che diceva insomma il fatto di avere dei luoghi di culto codificati piuttosto che il garage dove si va a pregare o la stanza rimediata fa sì che in realtà ci sia un maggiore controllo, in sostanza. Assolutamente, quello è giusto, è corretto, assolutamente, questo lo vediamo nell'esperienza degli altri paesi europei che da più anni hanno una comunità islamica sviluppata, e il risultato di quell'esperienza è che lo spingere l'Islam negli scantinati ha dato risultati molto negativi, e bisogna in un certo senso istituzionalizzare questo processo. Al tempo stesso il problema non è quindi moschea sì, moschea no, ma è chi gestisce queste moschee, perché anche una moschea, se comunque costruita con tutti i crismi, è però gestita da organizzazioni che sono fondamentaliste, che hanno adottano dei principi contrari a quella della coesione sociale o comunque ai valori nostri comuni del sentire comune italiano, e lì è il problema, che questa comunità, che questa moschea sia poi uno scantinato o sia peggio ancora una moschea di grosse dimensioni, questo è il problema. Purtroppo il dibattito è spesso moschea sì, moschea no, penso che sia chiaro che moschea sì, perché non si può far finta che l'Islam sia qui di passaggio o che scompaia. L'Islam è una realtà italiana e in sé non c'è niente di male in ciò, il problema è chi gestisce queste realtà. Infine la cronaca con una notizia che domina tutto in questa giornata, almeno a nostro giudizio, ed è una notizia che arriva dall'Emilia Romagna, ed è una maxi operazione condotta dalle forze di polizia, naturalmente, che riguarda l'Ndrangheta. Ci sono stati oltre 100 arresti, si sono scoperti collegamenti con la politica e soprattutto, insomma, è lo smantellamento, almeno il tentativo di smantellamento, di un'organizzazione criminale che proprio in Emilia Romagna evidentemente aveva messo forti radici. Ci sono anche, come spesso accade in questi casi, appalti collegati alla ricostruzione post terremoto del 2012. Sentiamo il servizio di Katia Caramelli. Ci sono anche importanti imprenditori del settore edile coinvolti nell'indagine che in Emilia e altre regioni ha portato all'arresto di 117 persone. Tra questi Giuseppe Iaquinta, padre del calciatore Vincenzo, campione del mondo, e Augusto Bianchini, tra i partecipanti agli appalti per la ricostruzione post-terremoto. Un'inchiesta che ha messo in luce come in Emilia l'Ndrangheta negli anni si sia consolidata indossando una nuova veste. Il procuratore di Bologna, Roberto Alfonso. Abbiamo per anni sentito parlare della mafia imprenditrice, bene, la mafia imprenditrice è quella che abbiamo scoperto e perseguito in Emilia. Contestualmente le procure di Catanzaro e Brescia, in inchieste collegate, hanno emesso altri 46 provvedimenti di fermo. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Risultato storico, senza precedenti. Io non ricordo, diciamo, a memoria un intervento di questo tipo contro un'organizzazione criminale forte, monolitica, profondamente radicata nel territorio emiliano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto anche per oggi per il podcast di Effetto Giorno. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi ringrazio per averlo scaricato e per averlo ascoltato naturalmente. Fate girare la notizia che appunto c'è questo podcast che è diverso dalla trasmissione. Ricordatevi sempre che se vi perdete una puntata di Effetto Giorno potete ritrovarla. Se avete un modo per iscrivervi al podcast naturalmente fatelo, perché così è più semplice e sapete esattamente il momento nel quale la ritroverete. Se avete critiche, osservazioni, tutto quello che volete, effettogiorno@radio24.it oppure il mio account Twitter Simone Spezia oppure la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Buona giornata.